Da quando ti conosco ho quasi come l'impressione di non saper più scrivere nemmeno una canzone. Non so più di che parlare, non mi serve più trovare un senso con le parole. E scrivere d'amore forse è impossibile, la vera musica è solo e soltanto vivere un secondo di te, solo un secondo di te. Al di là delle canzoni cosa c'è? Ci sei tu che ti addormenti su di me. E poi ci sono io che faccio colazione, che se mi guardi tu sembra un'orchestra di persone che fanno la rivoluzione. Perché è da quando ti conosco che non mi escono le frasi, come quando balbettavo alle scuole elementari. E quanto è bello dedicarti una passeggiata in centro, quanto è bello questo cielo anche quando sta in silenzio. Descrivere l'amore è così inutile, la vera musica è solo e soltanto